Certo, il colpo fisico che una tale separazione infligge al cuore e che, grazie al terribile potere di registrazione posseduto dal corpo, fa del dolore qualcosa di contemporaneo a tutte le epoche della vita in cui abbiamo sofferto. Certo, quel colpo al cuore, sul quale specula forse un poco, tanto poco ci si cura del dolore degli altri, colei che desidera portare il rimpianto al massimo d'intensità, sia che, non abbozzando che una falsa partenza, la donna voglia solo sollecitare condizioni migliori, sia che, partendo per sempre, desideri invece colpire o per vendicarsi o per continuare ad essere amata, oppure spezzare con violenza nell'interesse della qualità del ricordo che lascerà la rete di stanchezze, di indifferenze che aveva sentito tessersi, quel colpo al cuore, certo, ci eravamo ripromessi di evitarlo, ci eravamo detti che ci saremmo lasciati bene. Ma è veramente raro, alla fine, lasciarsi bene. Perché se si stesse bene, non ci si lascerebbe. E poi, la donna con la quale più ci mostriamo indifferenti sente lo stesso, oscuramente, che pur stancandocene in virtù d'una medesima abitudine, ci siamo sempre più attaccati a lei. E pensa che uno degli elementi essenziali per lasciarsi bene sia andarsene preavvertendo l'altro. E tuttavia, preavvertendo, teme di impedire. Ogni donna, quanto più grande è il suo potere su un uomo, sente che l'unico modo d'andarsene è fuggire. È così, fuggitiva perché regina. C'è una distanza enorme, sicuramente, fra la stanchezza che ci ispirava un attimo fa e questo furioso bisogno di riaverla perché è partita. Ma ci sono, a parte quelle già fornite nel corso di quest'opera e altre che lo saranno più avanti, delle ragioni. Innanzitutto, la partenza avviene spesso nel momento in cui maggiore, all'estremità dell'oscillazione del pendolo, è l'indifferenza, reale o presunta. La donna si dice no, non può più continuare così, proprio perché l'uomo non parla che di lasciarla o ci pensa, ed è lei ad andarsene. Allora, tornando il pendolo all'altra estremità, la distanza è massima. Ci mette un secondo per tornare a quel punto. Ancora una volta, a parte tutte le ragioni già fornite, è talmente naturale. Il cuore batte, e d'altra parte la donna che se n'è andata non è più la stessa che era qui. Alla sua vita accanto a noi, troppo conosciuta, s'aggiungono di colpo le vite alle quali inevitabilmente si mescolerà, ed è forse per mescolarsi ad esse che lei ci ha lasciati. Questa nuova ricchezza della vita di colei che se n'è andata retroagisce così su colei che avevamo accanto e che forse premeditava d'andarsene. Alla serie dei fatti psicologici che possiamo dedurre e che fanno parte della sua vita con noi, della nostra eccessiva stanchezza nei suoi confronti, della nostra gelosia anche, e per i quali gli uomini che sono stati lasciati da più donne lo sono stati quasi sempre nello stesso modo, a causa del loro carattere e di reazioni sempre identiche che è possibile calcolare. Ciascuno ha il suo proprio modo d'essere tradito, così come ha il suo modo di prendere il raffreddore. A questa serie, non troppo misteriosa, per noi corrispondeva, probabilmente, una serie di fatti che abbiamo ignorati. Da un po' di tempo lei intratteneva di sicuro relazioni scritte o verbali tramite messaggeri con un certo uomo o una certa donna. Aspettava un certo segnale che noi stessi, forse, le abbiamo dato senza saperlo, dicendole «Ieri è venuto a trovarmi il signor X», posto che avesse convenuto con il signor X che questi sarebbe venuto a trovarmi il giorno prima di quello in cui lei doveva raggiungerlo. Quante ipotesi possibili! Possibili? Niente di più. Ero così bravo a costruire la verità, ma soltanto nel possibile, che un giorno, aperta per sbaglio una lettera per una mia amante, lettera scritta in modo cifrato e che diceva «Aspetto sempre segnale per andare dal marchese di Saint-Loup, avvertitemi domani con telefonata», io ricostruii una sorta di fuga progettata. Il nome del marchese di Saint-Loup serviva unicamente a indicare qualcun altro, giacché la mia amante non conosceva Saint-Loup, ma mi aveva sentito parlare di lui, e d'altronde la firma era una specie di soprannome senza alcun significato. Ora, La lettera non era affatto indirizzata alla mia amante, ma a una persona della casa con un nome diverso che però era stato letto male. La lettera non era in cifra, ma in cattivo francese perché l'aveva scritta un'americana, effettivamente amica di Sam Lu, come questi mi disse. E lo strano modo in cui quell'americana tracciava certi caratteri aveva dato l'apparenza d'un soprannome a un nome del tutto reale ma straniero. Mi ero dunque completamente sbagliato quel giorno nei miei sospetti. Ma l'armatura intellettuale con cui avevo collegato quei fatti, tutti quanti falsi, era di per sé una forma così giusta, così inflessibile della verità, che quando, 3 mesi dopo, la mia amante, la quale a quei tempi pensava di restare con me tutta la vita, mi aveva lasciato, l'aveva fatto in maniera assolutamente identica a quella che io avevo immaginato la prima volta. Arrivò una lettera che aveva le stesse caratteristiche da me falsamente attribuite alla prima lettera, ma stavolta, appunto, con il senso del segnale. Ed era questa la più grande infelicità di tutta la mia vita. E, malgrado tutto, la sofferenza che essa mi provocava era ancora superata, forse, dalla curiosità di conoscerne le cause, chi Albertine avesse desiderato, ritrovato. Ma le sorgenti di questi grandi fatti sono come quelle dei fiumi. Abbiamo un bel percorrere la superficie della terra. Non le troviamo mai. Così Albertine aveva premeditato da tempo la sua fuga. E non ho detto, perché allora m'era parso solo del manierismo e del malumore, quello che per Françoise si chiama fare il muso, che dal giorno in cui aveva smesso di baciarmi, Albertine era stata l'immagine stessa della scontentezza, tutta rigida, impalata, con una voce triste nelle cose più semplici, lenta nei movimenti, senza più un sorriso. Non posso dire che qualcosa provasse una qualche connivenza con l'esterno. Françoise mi raccontò poi, è vero, che 2 giorni prima della partenza, entrata in camera sua, non ci aveva trovato nessuno, chiuse le tende, ma sentendo dall'odore dell'aria e dal rumore che la finestra era aperta. E in effetti aveva trovato Albertine sul balcone, ma non si vede con chi dal balcone avrebbe potuto corrispondere. E d'altra parte, le tende chiuse sulla finestra aperta potevano spiegarsi, perché sapeva come io temessi le correnti d'aria, e le tende, pur proteggendomene poco, avrebbero impedito a Françoise di vedere dal corridoio che le imposte erano aperte così di buon'ora. No, non vedo niente, tranne un piccolo fatto che prova soltanto come il giorno prima lei sapesse che sarebbe partita. Il giorno prima, infatti, prese in camera mia, senza che me ne accorgessi, una gran quantità di carta e di tela da imballaggio, e se ne servì per imballare tutta la notte, onde partire la mattina, i suoi innumerevoli accappatoi e vestaglie. È il solo fatto, non ci fu altro. Non posso attribuire importanza al particolare che lei mi restituì quasi di forza quella sera 1000 franchi che mi doveva. Non c'è niente di speciale, perché era, nelle questioni di denaro, d'una scrupolosità estrema. Sì, la carta da imballaggio la prese il giorno prima, ma non solo dal giorno prima sapeva che se ne sarebbe andata. Non fu la tristezza, infatti, a farla andar via, ma fu l'aver deciso d'andarsene, di rinunciare alla vita che aveva sognata, a darle quell'aria triste. Triste, quasi solennemente fredda con me, salvo l'ultima sera, quando, dopo essere rimasta da me più a lungo di quanto non volesse, il che mi stupiva in lei, sempre così desiderosa di protrarre, mi disse dalla porta: addio piccino mio. Ma al momento non ci feci caso. Françoise m'ha detto che l'indomani mattina, quando le disse che se ne andava, ma del resto la cosa è spiegabile anche con la stanchezza, perché non si era svestita e aveva passato tutta la notte a imballare, esclusi gli oggetti che doveva chiedere a Françoise e che non si trovavano in camera sua e nel suo bagno, Albertine era ancora talmente triste e talmente più rigida, talmente più impalata rispetto ai giorni precedenti, che quando le disse addio Françoise, Françoise credette che stesse per cadere. Quando si vengono a sapere queste cose, si capisce come la donna che ci piaceva talmente meno adesso, di tutte quelle che si incontrano con tanta facilità nel corso delle più semplici passeggiate e alla quale facevamo una colpa di dovergliele sacrificare, sia invece quella che preferiremmo mille volte. La questione, infatti, non si pone più fra un certo piacere divenuto per l'uso e forse la mediocrità dell'oggetto quasi nullo e altri piaceri invece allettanti, seducenti, ma fra questi piaceri e qualcosa d'assai più forte, la pietà per il dolore. Promettendo a me stesso che Albertine sarebbe stata di ritorno la sera stessa, avevo rimediato a quanto era più urgente e medicato con una nuova fede lo strappo da colei con la quale avevo vissuto sino a quel momento. Ma nonostante la rapidità con cui aveva agito il mio istinto di conservazione, quando Françoise m'aveva parlato, ero rimasto per un secondo senza alcun soccorso. E avevo un bel sapere adesso che Albertine sarebbe stata di ritorno la sera. Il dolore che avevo provato durante l'istante in cui non avevo ancora informato me stesso di quel ritorno, istante seguito alle parole «Mademoiselle Albertine ha chiesto i suoi bauli, Mademoiselle Albertine se n'è andata», quel dolore rinasceva da solo dentro di me, uguale a ciò che era stato, cioè come se io avessi ancora ignorato il prossimo ritorno di Albertine. D'altronde, bisognava che tornasse, ma di sua iniziativa. In qualsiasi ipotesi, dare l'impressione di far compiere un passo, pregarla di tornare, sarebbe stato controproducente. Certo, non avevo più la forza di rinunciare a lei, come l'avevo avuta con Gilbert. Più ancora che rivedere Albertine, quello che volevo era metter fine all'angoscia fisica che il mio cuore, più malandato d'un tempo, non poteva più sopportare. Inoltre, a forza d'abituarmi a non volere si trattasse di lavoro o d'altro, ero diventato più vile. Ma soprattutto, questa angoscia era incomparabilmente più forte, per molte ragioni, la più importante delle quali non era, forse, che con Madame de Germain e con Gilbert non avevo mai gustato piaceri sensuali, ma che, non vedendole ogni giorno, ad ogni ora, non avendone la possibilità e per conseguenza il bisogno, c'era in meno, nel mio amore per loro, la forza immensa dell'abitudine. Forse, ora che il mio cuore, incapace di volere e di sopportare spontaneamente la sofferenza, non trovava che un'unica soluzione possibile, il ritorno a qualsiasi costo di Albertine, la soluzione opposta, la rinuncia volontaria, la rassegnazione progressiva, mi sarebbe forse sembrata una soluzione da romanzo, inverosimile nella vita, se io stesso in altri tempi non avessi optato per essa, quando s'era trattato di Gilbert. Sapevo dunque che anche quest'altra soluzione poteva essere accettata, e da uno stesso uomo, dal momento che ero rimasto più o meno lo stesso. Semplicemente, il tempo aveva fatto la sua parte. Il tempo che mi aveva invecchiato. Il tempo, anche, che aveva collocato Albertine, quando facevamo vita in comune, perpetuamente accanto a me. Ma almeno, pur non rinunciando a lei, quello che mi restava di quanto avevo provato per Gilbert era la fierezza di non voler diventare agli occhi di Albertine un disgustoso zimbello mandando qualcuno a chiederle di tornare. Volevo che tornasse senza far la figura io di tenerci. Per non perdere tempo mi alzai, ma la sofferenza mi bloccò. Era la prima volta che mi alzavo da quando lei se n'era andata. Eppure bisognava che mi vestissi e in fretta per andare a informarmi dal portinaio di Albertine.